9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end. No safety, no surprise, the end. E andiamo avanti ancora con i Doors in queste nostre aperture e chiusure dei programmi ogni giorno, perché intanto il mercato continua a non aver cambiato idea ed è in attesa il 9 di dicembre di capire se gli euro leader sono in grado di assumere decisioni di portata adeguata alla sfiducia che il mercato, per buone ragioni dal suo punto di vista, nutre in maniera crescente da un anno e mezzo a questa parte, anzi da 2 anni, da che la crisi greca è diventata la miccia di cui poi alla fine l'Italia è diventato il potenziale detonatore e di che l'esplosione dell'euro. Come al solito, prima di entrare nei 2 punti della giornata, di cui questo è il mercato e l'Italia, a vedere gli sviluppi di cosa avviene rispetto alle manovre del governo, oggi c'è l'Ecofin, questo sarà il secondo punto. Il primo punto invece è un'analisi dell'impressione che vi fa e che può fare la lista dei sottosegretari a cui finalmente siamo arrivati ieri, completando quindi la composizione del governo. Prima di questi 2 punti, una rapida occhiata a qualche spunto dalla stampa internazionale. Molti quotidiani sottolineano l'asta di oggi di 8 miliardi di euro, quindi con nuove attese per capire dove andrà la curva dei rendimenti italiani. Su Deutsche Zeitung scrive che in realtà l'Italia e potrebbe essere quasi sicuro il primo paese dell'Euroara a chiedere un intervento in grande stile del FSF per le sue banche. Non ci sono dichiarazioni quotate in questo pezzo della Süddeutsche Zeitung, ma si fa cenno al fatto che il commissario Olli Rehn in Italia nei giorni scorsi avrebbe, per così dire, caldeggiato la proposta al presidente del Consiglio Mario Monti, e toccando anche poi con Mario Monti il punto della convergenza tra Italia e Francia intorno alle modifiche del trattato europeo. Questo è noto che sarà una delle questioni al centro dell'Eurovertice il 9 dicembre, con un regime più ferreo di controlli sulle politiche dei bilanci e con sanzioni automatiche da parte di tutti i contraenti, con l'impegno però a modificare questo punto del trattato in pochi mesi. Dovrebbe trattarsi, almeno queste erano le indiscrezioni non smentite, intanto di un patto che si fa tra i paesi dell'Euroarea che hanno la AAA, a cui poi associare altri in termini bilaterali. Comunque, su Deutsche Zeitung ha un articolo appunto di approfondimento sull'Italia. Interessante quello che sta avvenendo in Grecia, perché in Grecia, tra i tanti pasticci che hanno, il capo dell'Istat locale greca, Andreas Georgiou, si trova a dover affrontare un'indagine penale perché dei suoi ex colleghi lo accusano, membri quindi del board dell'Istat greco, lo accusano di avere contraffatto le statistiche del bilancio, ma non come è avvenuto fino alle elezioni di 2 anni fa, mascherando nell'ordine di 15 punti di PIL di deficit greco, bensì al contrario, a fine dell'anno scorso, questa volta gonfiandolo verso l'alto, cioè accrescendo il debito greco invece che diminuendolo, e in maniera tale, per così dire, da compiacere questa volta gli osservatori europei. E c'è anche un vicepresidente dell'Istat greco, Nikos Logothetis, che sostiene questa tesi. Quindi c'è una vera e propria indagine penale intorno ai criteri di revisione del deficit del 2009. Pensate a che cosa siamo arrivati se sui criteri con cui si redigono i bilanci pubblici anche negli istituti centrali di statistica i componenti stessi degli istituti centrali di statistica ricorrono ai giudici penali accusando i propri colleghi di essere al servizio della cosiddetta lobby europea degli affamatori. Beh, insomma, è una brutta brutta cosa su cui riflettere, riflettere bene, perché i numeri devono essere rispettati e noi abbiamo la lista di chi lo guida, del suo presidente Giovannini, un sacrosanto rispetto, e non vorremmo che anche in Italia qualcuno pensasse che dei numeri ci si fa anche su quelli delle indagini penali. Speriamo di no. In Germania, c'è il Bild ospita un calorosissimo appello di una delle figure storiche più rispettate, più importanti dell'FDP, del Partito Liberale, Hans-Dietrich Genscher, importantissimo ministro degli esteri e della difesa nella Germania precaduta del muro, un occidentalista a tutta prova e un europeista a tutta prova, e sul Bild Hans-Dietrich Genscher implora davvero, cuore in mano, i giovani membri del suo partito, la giovane leadership del partito Guido Westerwelle, a non insistere su questa linea di oltranzismo anti-europeo. Altra curiosità, in Portogallo anche lì un fermento antirigore, di cui si è messo alla testa uno dei sindacati dei magistrati, a cui sigla è ASGP, e la ASGP ha scritto un vero e proprio documento inoltrandolo al Parlamento, dicendo che il budget che il Parlamento sta adottando, un budget molto severo, è incostituzionale. Attenti a voi, perché cari parlamentari, la magistratura non può assistere impotente di fronte al fatto che state violando i principi di tutela degli strati sociali impliciti nella Costituzione. Anche lì una cosa singolare, i magistrati anche loro oramai contro il rigore europeo. Ugo Dixon è uno dei più ascoltati prestigiosi giornalisti economici europei e l'autore del Breaking News di Reuters. E Ugo Dixon oggi fa una column in cui dice: ma io provo ad accettare la logica dei tedeschi, però a dire la verità, di fronte alle conseguenze di recessione sempre più pesanti che si reggono ieri nei dati rilasciati dall'OCSE, e avete visto che dati sono con meno 0,5 per l'Italia, ma anche la Germania in realtà è il paese dell'euroarea che rispetto a una crescita che era del 2,9% diminuisce di più di 2 punti, dice: di fronte a quei dati io di adottare la logica tedesca proprio non ci riesco. Fine di questa analisi della stampa internazionale dedicata all'euroarea, e abbiamo con noi adesso Marcello Sorgi per dirci un secondo queste nomine dei sottosegretari ieri del governo Monti. Dal suo punto di vista, che cosa ci dicono? Ci aggiungono qualche cosa di politico, di impolitico sul governo? Aggiungono qualche, è serio analizzare col criterio dei conflitti di interesse, oppure semplicemente confermano che i due maggiori partiti da una parte e dall'altra non se la sono sentita di accrescere in qualche maniera e mutare sostanza al loro sostegno in Parlamento, ma si riservano in Parlamento di giudicare quando il professor Monti andrà e dirà che cosa vuole fare? Ma se guardiamo al tempo che è stato necessario per fare questa lista dei sottosegretari, paragonato non so a tutte le volte che è nato un governo in Italia, in genere il problema è per la lista dei ministri, mai per la lista dei sottosegretari che viene di conseguenza. Ecco, se guardiamo al tempo che è stato necessario, dobbiamo ricavarne che la resistenza dei partiti, e segnatamente dei partiti maggiori, è stata forte, non poi per ottenere chissà quale risultato, perché insomma di ciascuno dei sottosegretari è possibile ricostruire, diciamo, la vicinanza politica a questo o a quello, ma alla fine l'area delle competenze si è molto sfumata, no? Cioè qualcuno sì è competente per l'incarico che ha ricevuto, ma qualche altro, insomma, è bastato essere un buon giurista, un buon funzionario dello Stato, un buon consigliere di Stato, un buon consigliere di Corte dei Conti, un buon magistrato per essere sistemato in uno di questi posti. Quindi se questa era la difficoltà, potevano pure spiegarsi prima. Secondo me corrisponde a quello che dicevamo, cioè i due partiti maggiori innanzitutto insieme non marciano, sono molto sospettosi uno dell'altro e sono dubbiosi delle convenienze, della convenienza di sostenere questo governo. Nello stesso tempo sanno di essersi messi in una cosa ineluttabile, assolutamente ineluttabile, quindi non, cioè, tutti questi loro dubbi poi alla fine vanno a sbattere col fatto che la lista dei sottosegretari bisogna farla e che fra 10 giorni bisognerà cominciare a votare i provvedimenti che Monti deciderà. Il caso d'Andrea, in realtà perché è diventato secondo te più clamoroso degli altri? In realtà ci sono altri sottosegretari che hanno, come hai giustamente osservato, trascorsi con ministri politici di sapore inequivocabile. Nel suo caso cos'era? Quello che aveva una più diretta traccia di DNA politico? Ma dico quello che ho sentito ieri sera in Parlamento, cioè che c'è un elemento personale tra Gasparri e D'Andrea. Lui stesso nell'intervistina che ha fatto questa mattina alla stampa in qualche modo lo avvalora, cioè non mi pare una presa di posizione politica, mi pare più una presa di posizione personale, che poi si è ribaltata in quel documento dei 4-5 senatori. È chiaro che la nomina di D'Andrea scontenta per esempio Martuscello, no? Che era un segretario paratecnico, parapolitico, privo di incarico, che in questo momento poteva entrare come sottosegretario del governo. Però la mia sensazione è che quelli che non sono entrati, i tecnici politici alla D'Andrea, che non sono entrati perché i segretari politici dei loro partiti di riferimento non li hanno sostenuti, se no alla fine come ne hanno fatti due, perché quello Magri dell'UDC è pure politico, come ne hanno fatto due ne facevano 3-4, insomma. Una volta stabilito che si potevano fare, cioè il problema era se i partiti di riferimento li volevano o no. In realtà poi, per esempio, per quello che riguarda la parte economica e degli interventi possibili sul mercato del lavoro, sulle pensioni, cioè sugli aspetti più delicati, quelli che avranno un grande impatto del primo blocco di misure annunciato da Monti, lì Braccio di Ferro è stato non solo, diciamo, di appartenenza o di vicinanza, di cognizione politica, ma proprio di impostazione. Non tanto, secondo me, non so come la pensi tu, per i viceministri dell'economia, dove la vicenda è stata dominata, poi Grilli alla fine ha deciso di mettersi in aspettativa, evitando quindi che la gente gli rinfacciasse i soldi che prendeva se faceva il cumulo, però non tanto per l'economia nel caso di Grilli o di Vieri Ceriani, stimato tecnico della Banca d'Italia, sia pur vicino nella politica di sinistra, quanto perché al lavoro, per esempio, c'è stato in realtà un braccio di ferro vero, perché i nomi che erano girati, indicati da Elsa Fornero, tipo Bruno Manghi, una personalità della CISL, ma della CISL quella battagliera carnitiana, cioè di due decenni e mezzo fa, e che certo non rappresenta la CISL riformista di oggi, intorno a nomi come quelli mi risulta che ci sia stato un confronto serio, che lo stesso Mario Monti, che aveva detto sì, poi ci ha ripensato e ha detto no. L'impressione è che su queste scelte di fondo, per così dire, sia pure attraverso questa scelta di nomi dei sottosegretari, non ci sia ancora una fisionomia ben precisa della direzione da prendere, perché è chiaro che se pensiamo a un sindacalista antagonista invece che a un tecnico del mercato del lavoro, come alla fine si è fatto scegliendo Martone, che la pensa in tutt'altro modo, molto più vicino ad andare avanti nella direzione intrapresa in questi due ultimi anni, vuol dire che non si ha molto chiaro dove andare. Oppure secondo te non è la confusione, sono proprio gli elementi puri di collegamento o non collegamento personale nell'ambito ristretto del circolo di Monti e dei suoi ministri l'aver fatto la differenza? Io credo, la mia sensazione è che c'è stato un riequilibrio romano. Questo è stato il primo elemento, no? Cioè, siccome la maggior parte dei ministri venivano dal nord, da Torino e da Milano, si è deciso che i sottosegretari dovevano essere romani nell'accoglienza larga, cioè romani nel senso conosciuti a Roma, in servizio a Roma, gente che ha fatto parte di governi precedenti, un po' per riequilibrare. Poi Manghi, ma dico la verità, io l'ho conosciuto a Torino come consulente dell'Unione Industriali. È vero che ha un passato di Centri Studi CISL, un passato di CISL di sinistra, quel pezzo di CISL che negli anni 70-80 era piena, diciamo, di extraparlamentari di sinistra, per usare un termine arcaico, però io poi l'ho conosciuto come consulente dell'Unione Industriale, uno che, diciamo, questa sua esperienza l'ha messa al servizio anche di un lavoro diverso. Io credo che abbia prevalso di più il primo elemento, cioè la necessità di mettere personaggi più di riferimento romano, in particolare Martone è io mi è capitato di fare qualche convegno con lui, è un professore di diritto del lavoro di impostazione liberista, diciamo, che semmai quando l'ho sentito parlare è scontento anche delle parti politiche che più si riconoscono in queste posizioni, quindi lì sarà interessante vedere una volta messo alla prova cosa riesce a fare. Infine non ci possiamo, è inutile nascondersi che il fatto che Monti e si sia tenuto l'Inter in maleconomia. Qualcosa vuol dire, secondo me anche più di qualcosa, cioè non è che ci sarà tutta questa libertà di presentare provvedimenti in un governo tecnico che gode del fatto di, finché ce l'avrà, di potersi rivolgere al Parlamento in modo ineluttabile, cioè o così o non si fa niente. Non credo che il Ministro dell'Economia rinuncerà a dare degli indirizzi anche piuttosto forti in materia di lavoro, in materia, pensiamo solo al tema appena accennato nel discorso di insediamento delle norme per rendere più facili i licenziamenti, rilette come nomine per un rilancio dell'occupazione e con il necessario bilanciamento degli ammortizzatori sociali. Io dubito che in quella materia Monti lascia campo libero ad altri, sarà lui a determinarla, perché cioè, tutti i punti che ha enunciato del programma sono punti su cui lui ha già un'idea chiara, che ovviamente ha spiegato in modo più generico nel discorso della fiducia, ma che adesso metterà in pratica. Aver scelto un tecnico e non un sindacalista, cioè un professore e non un sindacalista, da questo punto di vista gli consente di negoziare di meno, secondo me. Ma è rimasto sorpreso o no dal fatto che il Corriere della Sera, che insomma uno può dire quello che vuole, ma ha avuto un certo peso nel formare questo governo, nel promuoverlo, nel dare il nome del candidato in pubblico, insomma è un po' il governo del Corriere della Sera, adesso non vuole, senza esagerare, ma è un po' così, e che ieri abbia fatto quel corsivo così duro rivolgendosi al ministro Passa dicendo beh però Mario Sciascia, cioè l'amministratore delegato della Banca delle Infrastrutture, una delle business unit di innovative create proprio da Corrado Passera in Intesa, no, l'amministratore delegato di Intesa di Banca Infrastrutture non te lo puoi portare come sottosegretario perché due con la stessa casacca sono troppi. Invece Corrado Passera l'ha fatto perché Mario Sciascia è puntualmente nella lista come viceministro per le infrastrutture. Che cosa ci dice o non ci dice quella nota del Corriere di ieri? Ma l'ho notata anche io, a me dice essenzialmente due cose: il Corriere non è rimasto contento di come il governo ha cominciato, no? Proprio adesso non so se sia per la ragione che ti dicevamo, cioè che questo che ha inteso questo governo come il governo del Corriere. Certo, Monti del Corriere è stato uno degli editorialisti più prestigiosi ed è stato anche nell'ultimo periodo, i suoi editoriali hanno scandito il declino di Berlusconi in modo molto netto, no? Però è la prova che non è il governo del Corriere, cioè quando uno diventa Presidente del Consiglio non è il governo del Corriere. Secondo me questi due primi provvedimenti che parliamoci col governo Berlusconi non si sarebbe potuto fare, né il decreto su Roma Capitale per la presenza della Lega, né l'accordo di Termini Imerese firmato anche dalla CGIL, cioè io penso che difficilmente si sarebbero fatte, si sarebbero rinviate, forse si sarebbe stato uno di quei tormentoni infiniti, mentre nell'attesa fin troppo lunga che si facesse la lista dei sottosegretari, il governo ha messo a segno questi due risultati che naturalmente possono essere criticati finché si vuole, però sono pezzi di governo, no? Cioè perché in 15 giorni ha fatto due cose che il governo Berlusconi non poteva fare. Credo che su nessuna di queste due poi il Corriere abbia fatto salti di gioia. Ora infatti io sono molto d'accordo con quello che dice Sorgi, perché anche il suo editoriale di oggi, il Corriere della Sera, meglio decidere che concertare, insomma assume un tono di inizio quasi di prestrigliata dicendo ragazzi state perdendo troppo tempo nel tentare di mettervi d'accordo, ma nella realtà la mia lettura, voglio sapere l'opinione di Sorgi, è un po' diverso. Nella realtà io credo che il tempo che consente ai nostalgici del governo Berlusconi di dire vedete che non c'era fretta, vedete che non era lo spread, insomma Giuliano Ferrara che da maestro tonitruante su questo picchia ogni giorno su questi argomenti, però oggi ha sancito la tregua ha sancito la tregua. Ma secondo me ha capito che tanto non lo seguiva Berlusconi per ragioni varie e diverse, siccome Berlusconi lascia sfogare ma poi dice votate il governo e anzi ieri ha detto non mettetegli fretta, secondo me alla fine Giuliano un pochino ha capito. Ma detto questo, io sono dell'idea che il tempo preso da Monti è un tempo preso preso nella convinzione che, vista la rotta di collo europea, o si capisce prima dove si sta andando il 9 di dicembre, oppure l'Italia è meglio che lo sappia, perché nel caso in cui il 9 di dicembre c'è un accordo europeo da costruire, almeno potenzialmente in grado di rabbonire per un po' almeno i mercati, è un conto e si può fare un punto di PIL di manovra, come lui giustamente ha preillustrato ai leader francesi, tedeschi e così via. Altrimenti arriva una tale pioggia che purtroppo bisogna prendere un ombrello più sostanzioso, e temo che questa sia una delle ragioni, almeno questa dal mio punto di vista. Ma invece, secondo l'osservatore Sorgi, qual è la vera questione per cui hanno preso tempo? Secondo me non è che, cioè, su questa questione qui non è che hanno preso tempo, è che il panorama generale è in evoluzione così rapida che le decisioni in termini di provvedimento che avrebbero potuto già prendere rischiano di rivelarsi inadeguate. Cioè, sostanzialmente, io poi non sono affatto un esperto di queste questioni, però insomma ragiono su quello che vedo da giornalista. Se vogliamo fare una distinzione di ordine molto molto generale, la domanda che bisogna porsi è: ce la fa l'Europa con una serie di provvedimenti concordati all'interno dell'Europa, e anche con una spinta in avanti in termini di definizione di un governo sovranazionale? Ce la fa l'Europa a risolvere il problema dell'area euro? Oppure alla fine dovrà pensare il Fondo Monetario Internazionale, cioè l'America deve venirci a risolvere il problema? Più o meno la sparo grossa, come è successo nel 1947 col piano Marshall, e con la differenza che, anziché aver combattuto una guerra, abbiamo combattuto una piccola guerra finanziaria, tutto sommato, cioè una guerra di speculazione. Qui nessun cannone ha sparato, non ci sono stati milioni di morti, non è cambiato il volto nei confini negli equilibri dell'Europa tutta. Questa è la domanda che ci si fa in questi giorni. Naturalmente, nel primo caso, il ruolo di Monti e del governo italiano è essenziale, perché se l'Italia dimostra di essere in grado di assumere quelle misure che possono rimetterla al mondo dei paesi credibili, e anche aiutare gli stessi Francia, il direttorio franco-tedesco a spingere in quella direzione, allora questa è la prima questione. Nel secondo caso non è più il problema dell'Italia e di Monti, è il problema dell'Europa tutta che va a gambe per aria. Allora ci prendiamo il prezzo del Fondo Monetario, allora la smentita tiepida del Fondo Monetario allo scoop della stampa dell'altro ieri mi fa pensare più quello. Anche a me, e io devo dire che c'è il rombo degli elicotteri del Fondo Monetario, continuerò a evocarlo, perché fino a che non c'è veramente una a me pare anche improbabile che l'Europa sia davvero in grado di fare ciò che serve, però naturalmente non resta che auspicare il contrario. Io ringrazio intanto Marcello Sorgi, il tempo che ci ha dato. Eccoci qui tornati, e mi veniva da sorridere pensando all'annuncio di Piacenza Kashmir, perché è con noi il professor Giacomo Vaciago, che segna politica economica all'Università Cattolica di Milano, ma che, insomma, per Piacenza, la sua vita civile, ha fatto molto. E naturalmente mai collegare una pubblicità a un ospite a un tema giornalistico, però Piacenza Kashmir poteva essere anche un buon soprannome. Buongiorno e grazie al professor Vaciago. Ciao, buongiorno. Kashmir non è la mia linea. Lo so. Mi occupo di guai monetari. Allora, e a questo proposito, intanto volevo assaggiare la temperatura del professor Vaciago intorno alla sua stima, ma il 9 dicembre, secondo lei, i governi dei paesi leader, innanzitutto i tedeschi, hanno capito che cosa serve per far deviare l'attesa dei mercati, secondo me legittimamente scommettenti sul fatto che invece l'Europa va su un binario morto e va a sbattere, oppure la ragionevolezza è un esercizio di ragionevolezza un po' di eccessivo ottimismo, crederlo? Ma dunque, io sono convinto che saggiamente i tedeschi ignorino i mercati, non li hanno mai capiti. Attenzione, quello è un modello tutto diverso da quello anglosassone, che li subisce i mercati. La Germania li ignora. La cancelliera in questi due anni non ha mai fatto riferimento una volta per sbaglio a cosa succede sui mercati, alla speculazione e così via. Quella è una locomotiva. I mercati sono le tempeste nel deserto, ma le locomotive le ignorano, le tempeste. scherzo, ma mica tanto, perché insomma qui delle due l'una: o qualcuno sa tutto e nessun altro l'ha capito, o qualcuno va per i fatti suoi e prima o poi gli altri si aggiusteranno. Io temo che, lasciamela completare, la speculazione o la ignori o la combatti, non la puoi subire. E in quest'anno noi l'abbiamo subita senza combatterla ad armi pari, con dei James Bond che penetrano oltre le linee e infliggono perdite micidiali. Insomma, in quest'anno gli speculatori hanno fatto i soldi che hanno voluto, avendo di fronte a sé governi, salvo quello tedesco, che avevano paura. E allora quella lì è una guerra che puoi solo perdere. Ma la Germania non l'ha mai fatte le guerre con la speculazione, perché appunto la speculazione, come dicevo, o la combatti o la ignori, non puoi certo solo temerla. E a metà mattina domandarci cos'è lo spread oggi è drammatico, e succede da un anno. Comunque siamo in zona 512-520, tanto appunto, per... ma io ho cominciato a diventare tedesco. Quando mi chiedono cos'è lo spread oggi, dico cos'è lo spread oggi, cioè rigiro la domanda per far finta di ignorarlo il problema. Però, posso dire una cosa, giusto, perché siccome i nostri ascoltatori ondeggiano, c'è chi dice si faccia qualunque cosa pur di fermare l'attacco all'euro, o pur di fermare l'ipotesi che l'euro esploda, perché tutti ci rimettiamo, altri non capiscono perché io ogni tanto ripeto che se fossi tedesco ragionerei esattamente come i tedeschi, e compreso una specie di conto comparato tra ciò che mi costerebbe continuare a rimanere nell'euro in queste condizioni e invece andare avanti per la via della virtù nel bilancio pubblico, nella finanza pubblica, ma anche e soprattutto nella produttività dell'economia reale. Allora, per fare capire meglio agli ascoltatori, il professor Vaciago abbraccia questa visione tedesca come la visione sulla quale continuare, rafforzandolo, ad andare avanti nell'euroedificio, oppure ha avuto motivi per ricredersi in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, da che c'è la crisi greca, è diventata una miccia, non il detonatore per la possibile esplosione dell'euro, e dice no, dobbiamo rivedere dalle fondamenta questa concezione, non aggiungerci pezzi come è la mia strada, ma proprio rivedere dalle fondamenta, perché si è rivelata sbagliata. Che pensa Vaciago? Allora, l'euro è una costruzione molto fragile, è una casa di cristallo dove vediamo tutto quello che succede dentro. Se i 17 governi non cooperano come fossero quasi uno solo quando ci sono problemi seri, l'euro si rompe. Perché per definizione la terza gamba, dopo il patto sulla stabilità ampiamente violato, e Mario Monti gli è andato a dire a Strasburgo e avete incominciato voi nel 2003, non gliel'ha mai perdonata Mario Monti ai tedeschi e ai francesi di aver dato il cattivo esempio nel 2003, gliel'è andata a dire anche 10 anni dopo. In ogni caso, tornando a noi, BCE autonoma, e se tu gli dici cosa deve fare è costretta a non farlo. Questa è l'ennesima gaffe del nostro amico francese, che dà ordini alla BCE impedendole di fare le cose. La BCE è autonoma, ha buon senso, rappresenta ciò che abbiamo in comune, una grande moneta, se ne occupa, non sono stupidi, hanno letto Keynes e quindi fanno quello che possono se glielo lasciamo fare. Poi c'è la gamba del patto di stabilità crescita, che è bisognoso di essere tutto ripensato, ma il pensiero è in corso, e poi c'è la capacità dei 17 governi di far squadra come un uomo o una donna sola, quando c'è casino nei mercati. E qui questa è la vera gamba che manca. I 17 negli ultimi 2 anni hanno fatto conferenze accademiche, dove accademico è la presa in giro del mio mestiere. In altre parole, si sono incontrati n volte a parlare dei problemi, mai una volta una soluzione. Anche il Fondo Salva Stati è fermo da 6 mesi. Non è possibile che i 17 governi non sappiano che stanno allevando un bambino e lo devono tirar su bene, con amore e intelligenza. Ma dico, se tiravano su così dei bambini sarebbero tutti dei mostri adesso. Allora, la prima responsabilità è 17 governi. Dopodiché c'è sempre chi fa confusione. Oscar, ti racconto un episodio emblematico. la Bundesbank ritira l'invenduto a tutte le aste, sì, perché l'agenzia del debito tedesco non indovina sempre prezzi e quantità. Solo Alessandro Merli sul Sole ha spiegato che è successo 6 volte, esatto, negli ultime 8 emissioni. Ma io ho letto gente che si stracciava le vesti e diceva: siamo alla fine, anche la grande Germania non riesce più ad emettere, la Bundesbank contro ogni legge glieli ritira di soppiatto, tutte balle. Allora c'è panico e c'è anche del terrorismo ideologico di amici anche illustri che scrivono senza prima informarsi, ma uno prima si informa se quel che dice è vero o no. C'è una situazione paradossale di panico alimentato dai governi, ma che bravi che sono! Ma vogliamo. Detto tutto ciò, è chiaro che riusciamo a romperle come questo euro. E quindi quando mi dicono: ma tu escludi che fra un anno siamo tutti con le nostre monetine? Ah no, dico, si può sempre andare indietro. Sarebbe un fiasco storico. Mai come oggi avremmo bisogno di 17 che fanno squadra, 331 milioni di consumatori ben serviti. Saremmo i primi al mondo, batteremmo l'America, batteremmo la Cina. Peccato che non abbiamo governi all'altezza dei tempi. E quindi la probabilità che tutto vada a casa, che ci rompiamo, che si ritorna alle monetine e non contiamo più un tubo, Germania compresa, da soli, e la probabilità c'è, ovviamente. L'umanità è mica sempre andata davanti, è andata anche tante volte indietro. Vogliamo spiegare a chi pensa invece che c'è da guadagnarci con la rottura dell'euro, a tornare alle monetine, perché così svalutiamo eccetera, che prima dei vantaggi per l'export si tratterebbe di incorporare una colossale botta sul valore reale di qualunque asset, reddito reale, capacità d'acquisto, reddito e stock patrimoniale italiano. E questo non è molto chiaro alla gente. Ma se qualcuno pensa che le svalutazioni arricchiscano un paese, vada a scuola, perché è ovvio che noi possiamo sempre porre rimedio a errori precedenti, come un concordato preventivo di un'azienda che ha sbagliato tutto e alla fine fa un concordato preventivo. Se la chiami un successo, io mi preoccupo. È chiaro che noi possiamo finalmente tornare alle belle svalutazioni del passato, di un paese che non andava da nessuna parte, però i paesi fortunati sono quelli che con guadagni di produttività possono permettersi apprezzamenti che arricchiscono il paese. Cioè, se il nostro sogno è la miseria, ci riusciamo benissimo. E se uscendo dall'euro possiamo finalmente svalutare del 30% e quindi essere tutti più poveri, perché il debito denominato in euro si apprezza, ahimè, ed è drammatico. Se qualcuno si illude che la svalutazione sia la strada per la virtù, beh, allora non ha capito cosa vuol dire svalutare, vuol dire valere meno, vuol dire regalare prodotto al resto del mondo. E quando, di quando in qua è un affare. Poi è ovvio che se le hai sbagliate tutte per 10 anni, sei stato senza governo per anni. Adesso ogni tanto qualcuno mi chiede cosa penso del governo, dico: finalmente ce l'ho. Di destra o di sinistra non mi importa, ma stare senza governo per anni non fa mica bene. Allora, ora andiamo sul minuto di informazione stradale. Al ritorno, la domanda per il professor Vaciago, che ce n'è da molti con l'SMS: dite quello che volete, ma do le nuove previsioni con l'Italia che cresce del meno 0,5% e la Germania che passa dal 2,9 a 0,8-0,9, quindi si inchioda anche lei. Quando c'è un'intera euroarea che per effetto della sottovalutazione, della crisi, dell'eccesso di debito pubblico va in deflazione, col segno meno, pensare alle manovre del professor Monti significa candidarsi a seguire nel picco il PIL, come è avvenuto per la Grecia, per il Portogallo, l'abbiamo ricordato. Ci sono magistrati portoghesi che oramai ammoniscono il Parlamento, attenti a non violare la Costituzione. C'è l'Istat greco in cui il Presidente è sotto inchiesta per compiacere troppo l'Europa, perché addirittura sarebbe passato all'eccesso opposto, gonfiare troppo il deficit dopo che l'avevano nascosto di 15 punti di PIL. Però anche ai nostri ascoltatori, ad alcuni di loro dice: ma non è che ci avviamo a fare la stessa cosa con questo governo, non è che per caso non dovremmo considerare delle alternative per non picchiare la domanda interna? E mentre riprende sul come sfondo di Stand the Doors, parola a Giacomo Vacciago. Che dire a questi che dicono: ma perché ci dobbiamo candidare anche noi a perdere ancora più punti per via delle manovre che, se poi le adottiamo così, fanno comprimere il denominatore della frazione, il PIL ancora di più, e il debito pubblico mica per un punto di manovra in più di Monti migliora, rischiamo solo di peggiorare. Risposta? Beh, anzitutto Mario Monti deve saperlo, ma lo sa, che non può strizzare l'economia più di tanto, perché se poi entriamo in recessione, come giustamente dicevi, inizia la tragedia greca, ti fai del male e vuoi anche ridurre il deficit del debito, cosa che diventa impossibile. Detto ciò, il debito lo riduciamo con le dismissioni, non possiamo tenere un patrimonio che non rende niente e pagare l'8% marginale sul debito, è assurdo, e quindi e questa cosa la sappiamo. Dopodiché io spero che sempre nella manovra Monti, che non conosco, ci stia dentro un discorso di spostamento, come da anni tutti dicono, cominciata dalla Banca d'Italia, di tassazione dalle famiglie e dalle imprese versus i patrimoni. I patrimoni è l'integrale del passato, il reddito prodotto e speso è il futuro. Se noi continuiamo a tassare il futuro più del passato, non andiamo da nessuna parte. Ma questo credo che Monti lo sappia, e sappia che il 2012, essendo un anno di mini recessione, attenzione, una recessione ogni tanto è normale nell'economia, non è il problema principale, è successo in media una volta l'anno ogni 10 anni in tutti gli anni del dopoguerra, non sono necessariamente gravi. Questa è un po' una recessione anomala, perché ce la siamo andata a cercare di nuovo con questi governi pasticcioni che predicano e praticano con le idee confuse. Però non vorrei di nuovo drammatizzare, l'importante saranno, quello che io spero fortemente, le manovre strutturali che consentono di alzare pian pianino, non in 3 giorni, il potenziale di crescita della nostra economia, la produttività totale, ferma da 15 anni, e quindi la pagella va a tutta la classe politica che ci ha governato per 15 anni e non certo solo al governo Berlusconi. Detto ciò, è anche chiaro che i 17 si devono mettere d'accordo. Se tutti i 17 governi fanno manovre restrittive in contemporanea, la recessione si aggrava. Sì. È come se 17 marinai vanno tutti dalla parte sola della barca. La barca si rovescia, sì, ma questo lo sappiamo da sempre, lo insegniamo ai nostri studenti. Io spero che a Bruxelles il buon senso ogni tanto riemerga. E infatti questo è l'auspicio, devo dire la verità, insieme alle considerazioni di Giacomo Vacciago intorno al fatto che è noto, quindi adesso si tratta di scrivere di questi provvedimenti, di portarli in Parlamento, però che cosa serva è noto. Io sono d'accordissimo sul fatto che le dismissioni sono la via per liberarci di una parte non troppo bassa, diciamo così, del debito pubblico. Noi abbiamo bisogno di meno tassazione su il lavoro e sull'impresa, e su questo possiamo, come incentivo a breve per la crescita, è più efficace quello fiscale, e non si può fare che così nel nostro ordinamento, quindi è giusto farlo. Quindi sentiamo rapidamente un po' di ascoltatori come la pensano. Cominciamo con Fabrizio dalla provincia di Roma. Prego Fabrizio. Buongiorno Giannino. Allora guardi, io sono molto interessato a sapere il suo parere su questo. Le prometto che io, insomma, nella mia prima vita ho lavorato in una sala cambi di una grande banca, quindi insomma chiaramente credo di conoscere qualcosa. Sa di che cosa si parla, sì. Ecco, io guardi, stavo negli anni 90, dopodiché sono scappato quando vedevo nelle sale cambi entrare matematici, fisici, quantistici e quant'altro, che si divertivano a fare queste formule astruse per questi strumenti finanziari, dove tutti abboccavano, forse perché non sapevano di che si parlava, faceva fico, eccetera, eccetera. Allora io direi, visto che oggi leggiamo sui giornali che la Fed, insomma, ha speso 7.700 miliardi di dollari per finanziare le banche americane, che sono stati i primi colpevoli di questa crisi, secondo me, ma cosa ci vuole prima di fare le manovre concertate e tutto quanto, ma cosa ci vuole a fermare o a limitare questa maledetta finanza derivata che poi ha creato tanti problemi e sta portando tutti questi problemi nell'economia? Fabrizio, domanda chiara al netto della nostalgia del vecchio cambista che ha un po' troppo diffidenza verso i matematici finanziari. La matematica finanziaria non è affatto solo uno strumento per fare finanza sintetica e high frequency trading, per così dire, cioè per avere i computer che decidono da soli per soglie di prezzo, su cui passa la stragrande maggioranza delle contrattazioni quando c'è alta volatilità, sono quelle che alzano il beta, cioè sono i più computer che ci sono da solo. Matematici finanziari servono anche a dare maggior solidità ai conti dei rendimenti intertemporali rispetto ai sottostanti, quindi io sono meno diffidente, ma la domanda significa perché non siamo riusciti a intervenire sull'omologazione di ciò che ha generato la crisi, e io a Vaciago devo chiedere in un minuto di dire la sua opinione come mai le tre macro aree mondiali col cavolo che hanno trovato gli standard davvero di un nuovo modello di intermediazione finanziaria. No, diciamo che abbiamo le idee più chiare, il G20 di Mario Draghi ha lavorato bene, ma tutti quelle propositi di buone intenzioni, sviluppare meglio i mercati, controllare le società di intermediazione con rilievo sistemico, controllare lo shadow banking, tutte queste cose sono ancora tutte da realizzare. Attenzione che noi non abbiamo un super governo mondiale che decide per tutti, deve ancora passare in tutti i parlamenti e fare tutte le nuove regole, e quindi abbiamo un manuale, il prodotto di 3 anni del G20 di Draghi, il manuale delle marmotte, delle cose da fare. Adesso per piacere i parlamenti guidati dai loro governi trasformino tutto ciò in nuove regole, altrimenti il nostro amico ha ragione, sì. I matematici allo sbando combinano guai. Esatto, sentiamo ancora come la pensa Stefano dalla provincia di Roma, prego Stefano. Sì, salve, un saluto a tutti. Dunque, fermo restando appunto che neanche i 7 nani di Biancaneve hanno mai creduto che noi stavamo componendo un mosaico europeo, ma l'euro è stato un discorso che ormai abbiamo capito tutti a che cosa tendeva. Io so soltanto una cosa, che come dipendente statale negli ultimi 10 anni mi sono impoverito di circa il 40%. E si figuri i dipendenti privati che hanno preso aumenti di reddito appunto, ben inferiori ai vostri? Sto dicendo questo, che tutte le mie certezze sono crollate e questo mi ha portato l'euro. Questi sono i fatti, le fuffe e le chiacchiere sono a zero. Perdoni però se lei dice che chi sostiene che l'euro serva e sono fuffe e chiacchiere, è finita la domanda, perché sa, qui non è una questione su questa bella base, quale sarebbe la sua domanda? Mi perdoni, perché io sono dell'idea che bisogna essere un pochino più aperti prima di credere di essere detentori di verità, perché i nostalgici della lira a me fanno sostanzialmente ridere. Io li inviterei a prendere qualche libro in mano, ecco. Altrimenti pensare che si stava meglio quando si stava peggio è una delle specializzazioni italiane che in questa trasmissione non si praticano. Noi siamo felicemente convinti che l'Italia possa andare verso il meglio e non verso la nostalgia. Grazie al professor Vaciago per aver cooperato con questa trasmissione. Mi dispiace l'ascoltatore, richiami perché gli farò fare la domanda. Non voglio sembrare energico, però non mi può dire il resto è fuffa. È fuffa la nostalgia. Che volete tornare al governo che c'era prima? Auguri, a domani di Nazionale Radio. 9 in punto.